la guerra, ma Sony, Sony e Sony, e non ti importa niente se nanzi un focalino, una matrichianci e prega, una matrichianci e prega, una matrichianci e prega. Unisi figlio, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi poveri peccatori, e Maria dare li porti, casintia li curriati, n'uccidate così forti, sugnu carne delicate. Che brutta notte, che brutto vento, come sbattono li porte, che brutto presentimento. Ti portarono fazzoletto, niuro, niuro, niuro, niuro, ti portarono pare guasetti, niuri, niuri, niuri, niuri. Ti portare una camisa bianca, bianca, bianca, bianca, ma con un buco a un petto, ma con un buco a un petto, ma con un buco a un petto. Figlio, figlio, come ripeto, figlio. Ma la sorte ti toccò, figlio. Carnozze delicate mei, tamburro di la guerra, da soni, soni e soni, e non te fotte niente se nanzi un po' calini, una matrichianci e mori, e mori de dolori, e mori de dolori, e mori de dolori, e mori de compagni, popolo, i santi poeti, navigatori ed eroi, ma soprattutto di eroi, a voi, a voi, a voi, a voi, ci rivolgiamo ai vostri cuori, alle vostre menti, alle vostre anime, per dirvi grazie, fratello, grazie, grazie, grazie, grazie per essere venuti qua, due parole siamo venuti a dirvi, è giunta l'ora, amici, l'ora di agire, di scendere in campo, impegnarci tutti, in prima persona per cambiare questo paese nel profondo, e sradicarlo da quelle antiche logiche massoniche che per anni ci hanno tenuto immobili e ci hanno reso schiavi. Non è più il momento dei tentennamenti, dei dubbi, dei ripensamenti, è il momento del coraggio. Dobbiamo liberare la nostra patria da questi governanti che come dei vili mercanti ci stanno svendendo senza e dobbiamo ragione. Difenderci dal nemico straniero che spinge le porte ai confini della nostra nazione per far sì che il nostro paese torni ad essere quell'antica e gloriosa potenza di cui tutti hanno avuto memoria, di cui tutti hanno avuto dimostrazione, di cui tutti ancora oggi hanno paura. Fratelli. Noi non siamo qua per farci prendere in giro. Noi diciamo no. Anche tu no. Anche voi insieme a noi no. Siamo pronti a combattere e lottare perché il nostro no abbia il suo paese in Europa e nel mondo intero. Ma per fare questo dobbiamo tornare a sentirci uno. Un grande popolo, un grande paese, un unico e grande esercito nazionale. Tutti insieme ce la possiamo fare. Sì, ce la possiamo fare. Yes, we can. Potremo, se è possibile. Che cosa state aspettando? Fare la guerra, sì. Forza! Correte ad arruolarvi nelle file dell'esercito nazionale! Tutti lo potete fare, giovani, anziani, studenti, impiegati! Donne incinte, in menopausa, disoccupati! Preti, omosessuali, disabili, anche meridionali! Sciamano me! E se non potete andare voi, passate voce, ma ditelo ai vostri amici! Ai parenti, ai conoscenti, dateci tutto quello che potete! Ma sì, dateci un figlio! Dateci un occhio! Dateci un dente! Dateci un rene! Dateci tutto il vostro valore! Il vostro valore! Sì. La solda, capite l'inglese? I vostri soldi, dateli a noi e noi li useremo per ricostruire il futuro della nostra patria! La terra dei vostri padri! Allora basta perdere tempo, basta! Prendiamo i nostri ragazzi e buttiamoli in prima linea alla ribalta internazionale! Ma sì, mandiamoli all'estero a imparare l'inglese! Qualcuno si brucerà! Beh, È necessario, ma molti altri si troveranno face a face con la storia, con la gloria. Guardate questo qua. Guardate questo bamboccione, no, questo mammone. Che cosa c'ha di buono lui, secondo voi? È simpatico. Che cosa hai di buono tu? Dillo allora. Che cosa c'ha? Niente! Tu sei buono a niente! Se non fosse che questo è il simbolo della nostra patria, signori! Il sacrificio! Perché questo, sia chiaro, è un sacrificio. Sì, ma è un sacrificio che non vi chiediamo noi. No, è un sacrificio che ci chiede il paese. Sì. Ce lo chiede la storia, ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede Dio! Vabbè, dai, diciamolo, bisogna dirlo, è una guerra, perché va detto, è una guerra, fratelli, sì. Ma è la nostra grande occasione, è la grande, la prima, la migliore! Ma che patria! Ma che onore! Quale senso del dovere! Questo è un porco mondezzaio, è una fogna a cielo aperto piena di cadaveri di fango dove noi sguazziamo tutti quanti, tutti i giorni per cercare di salvare la pellaccia. È uno schifo, è un assurdo e maledetto schifo che nessuno ha più il coraggio né la voglia di cambiare o di fermare. Ci hanno convinto ad arruolarci con ardore, con passione e poi ci hanno buttato in prima linea senza alcuna protezione. 18 anni avevamo. Io 18 e mezzo appena fatti quando una nuova prospettiva mi scoppiò davanti agli occhi e mi cambiò la vita per sempre. Mi ero appena diplomato. 5 anni di liceo sgomitando, scopiazzando dai compagni per cercare di tenere il passo. Non volevo rimanere indietro, avevo paura di ritrovarmi solo. In quei giorni tutti quanti ci facevano il lavaggio del cervello. Padri, preti, professori, questa guerra è una cosa giusta, santa, necessaria. E così era dappertutto. Non potevi più restare solo per la strada, vestito da soldato, che ufficiali e entusiasti ed esaltati correvano incontro ad incoraggiarti. Andiamo con coraggio a fare il nostro dovere, ragazzi, che se Dio vi vuole bene, presto tornerete ad abbracciare vostra madre. Date una bella scoppola a questi barbari stranieri. Quando noi avevamo l'acquedotto, questi si tagliavano la carne con le clave. Non potevi più neanche appartarti con la tua fidanzatina per un bacio di congedo, una promessa, un saluto. Che venivano a stanarci come volpi. Andate, ragazzi, forza! Il paese ha bisogno di soldati come voi. Eroi! Eroi! Eroi! Sembrava di essere in una festa popolare. Da qualunque balcone, dietro qualsiasi portone, si sentivano cori, inni nazionali che inneggiavano a noi. Eroi! Salvatori della patria. Soltanto i poveri di semplici ragionavano diversamente. E stimarono subito la guerra una disgrazia. Ci vedevano salire su quei treni, commossi, col cappello in mano, e si facevano il segno della croce. Noi li guardavamo, ma non capivamo, ma questi che fanno? Oh, ma non porteranno mica sfortuna. Ma era un attimo, un istante di passaggio, poi anche noi tornavamo a cantare tutti in coro. Siamo noi i cavalleggeri, caccia gli stranieri anche oltre l'aldilà. Era un'onda, una marea, che travolse tutti quanti però. Persino me e i miei compagni di classe, che come aerei in formazione, tutti insieme, tutti uguali, decidemmo di arruolarci volontari. Persino Ben, Giuseppe, il secchione della classe, riuscirono a convincere. Lui basso, grassottello, con gli occhiali spessi spessi, che all'inizio non se la sentiva, aveva paura. Ma alla fine si arruolò insieme a noi, altrimenti la sua vita non sarebbe più rimasta uguale. E a pensarla come lui eravamo in tanti in quei giorni, ma nessuno aveva più il coraggio di tirarsi indietro, persino i nostri genitori avevano la parola vigliacco sempre a portata di mano. E all'inizio era anche bello, tutto grande, enorme, differente, ci fornivano di tutto, scarpe, zaino, baionette, giacche, braghe, le vanghette, soldi, vitto, sigarette, le coperte per la notte, le gavette per il viaggio, ci divisero in gruppetti in enormi camerate dove noi aspettavamo curiosi di affrontare quella vita per entrare di diritto nella storia, ma dopo 5 settimane le canzoni diventarono comandi urlati a squarciagola, battaglio, attenti, fianco de, presenta, fianco sinistro, presentata, battaglio, avanti, marcia, marcia, marcia, marciare, marciare, marciare. marciare e marcire, sotto il sole, con la pioggia, sulla neve, nella nebbia. Non facevamo altro che marciare, addestrati da feroci gallonati che più erano bassi e analfabeti, più erano stronzi e incattiviti. Ci accorgiamo molto presto che dalla nostra istruzione non importava niente a nessuno. Dante, Nietzsche o Cicerone non ci avrebbero potuto aiutare. Eravamo idealisti e romantici quando arrivammo, ma imparammo tutto d'un tratto che qui contava più la spazzola per pulire che il pensiero, più il sistema che lo spirito, più lo scattare che la nostra idea di libertà. Marciare, marciare, marciare senza mangiare, marciare senza dormire, marciare fino a scoppiare, fino a quando improvvisamente e spaventosamente ci accorgiamo che eravamo rimasti sole e che da sole dovevamo saltarci fuori! Orrere, il passarello entra la vena, orrere, il passarello entra la vena, se non lo farà, se non lo farà, se non lo farà, tutta la vena se la mangia. Anche quando mi addormento di botto, poi mi risveglio subito di soprassalto per questi rumori continui. Sempre allerta devo stare, con i nervi tirati, e questo peso al cuore è come una cortina gelida che mi avvolge. Al mattino ho la testa pesante, un senso di impotenza, la voglia di correre per strapparmelo di dosso, ma non posso muovermi. Vorrei l'aiuto di qualcuno, ma nessuno mi può aiutare. Da solo devo fare tutto da solo. Anche quando tutto sembra perduto, devo ributtarmi in piedi e ripartire. Da quando sono qui non ho visto un sorriso, ma solo musi lunghi e malcontento. È il capitano che tiene alto il morale delle sue truppe. Se il capitano è un parassita, tutta la nave affonda, tutta la nazione affonda. Dov'è la responsabilità individuale, mi domando? Perché al potere c'è sempre incompetenza, c'è sempre mediocrità? Ma in fondo non avete niente. Siete solo potenti senza onore, potenti senza coraggio, potenti senza forza, che come sanguisughe vi nutrite del sangue degli altri, della fatica degli altri, della gioia degli altri. Elementi geniali, intelligenti, lungimiranti, perché vengono sempre schiacciate? Questo essere che si chiama uomo, quanto è deludente. Non ci vai a mondo, mi non fa chi l'ha chianata. Non ci vai a mondo, mi non fa chi l'ha chianata. E t'attacca vai da fonda, tutta la umana stanna a monta. T'attacca vai da fonda, tutta la umana stanna a monta. Orrere, lo passarello entra la vena. Orrere, lo passarello entra la vena. Se non lo afferrà, se non lo afferrà, se non lo afferrà, tutta la vena se la mangia. Ah. Guardate qua. Così ci ha fatto le scarpe l'esercito nazionale a noi. Questa è la nostra modernità. Siamo calzati da fare pietà. Scarpe di cuoio scadente cucito con filo leggero da abito, mica con lo spago. E cucite a macchina invece che a mano. E a che serve? Queste scarpe non durano. 3 giorni di marcia e le suole si spaccano, si staccano, si aprono per l'umidità. 1 mese di uso le rende praticamente inutilizzabili. E questo qui è un danno mica solo economico. Questo è un danno totale per tutto il morale di noi truppe costrette a vergognarci e a lacerarci i piedi quando marciamo d'inverno sui monti a 3.000 metri sul fango, alla ghiaccio, nella neve. Uomini sacrificati, maltrattati. Noi, che portiamo sulle nostre spalle il vero peso morale, corporale e finanziario della guerra, siamo i peggio trattati. Delinquenti. Chi ci ha fatto le scarpe così per frode o per incuria è un delinquente. Io, se ce l'avessi di fronte, lo ammazzerei a coltellate. Sì, perché è l'ora di finirla, sapete? Bisognerebbe istituire un'estrema sanzione contro chi froda l'erario. È necessaria, soprattutto di questi tempi. Il loro delitto non è soltanto frode. Il loro delitto è rovina morale di un intero paese. Se ancora c'è qualcosa da salvare, eh? Io mi auguro che questa gente muoia di fame, di tifi, e che i loro figli e nipoti siano spaccati a metà da una scure. Chissà. Chissà quelle vacche grasse di senatori e ministri, o quegli acquosi pancioni di direttori e generaloni come crederanno di aver provveduto alle sorti del paese. Con i loro discorsi, con le loro interviste. Ma perché non guardano? Perché non vedono come siamo calzati noi del Quinto Alpini? È il presidente del Consiglio o quello scemo rimbambito del re? Perché non chiedono a me come siamo sistemati io e i miei compagni? Allora sì che vedrebbero un uomo perdere la testa, ma non sarei certo io. Questi invece no, vengono qua, fanno le visitine in trincea, ma guardano le cose con occhio da cortigiani, non col proprio occhio acuto, sospettoso, rabbioso. Persino il nostro generale, che è un perfetto asino, sia chiaro, non è mai venuto a vedere noi come siamo sistemati. Noi che siamo i suoi uomini, capite? Asini, vacche grasse. La nostra classe dirigente è formata da pezzi dei Grand Hotel, sigari Havana e bagni idromassaggio, ma non da guerrieri, pensatori, ideatori, costruttori. Sono persone incapaci di osservazione e di analisi, ignoranti di cose psicologiche, inabili persino con la sintassi. Gli piace dire in pubblico sì, che il morale delle truppe è la prima cosa. Ma tanto poi quando i giornalisti sono andati via, si sono già dimenticati tutto. Tanto sotto le bombe ci stiamo noi, soldati, ammassati come animali dentro queste trincee di fango sterpaglia. Noi, ragazzi, minacciati dai nostri stessi ufficiali, che ci puntano la rivoltella alle spalle e ci ordinano di uscire. Al loro comando non ci resta che bere ed obbedire, e per cercare di non morire non ci rimane che correre. Contro le mitragliatrici, sotto le bombe, al buio, in mezzo alle buche profonde 3 metri, senza vedere e sentire più niente. Correre contro il fuoco tambureggiante, sferzando mazzate di vanghette e di baionette per aprirci le varchi fra le file nemiche. Correre, attenti a non inciampare in quelli davanti che cadono morti e feriti, e attenti a non cadere per non essere travolti dai nostri stessi compagni che caricano ciecati dai fumi delle esplosioni. Correre in mezzo alle vampe di fuoco che sprizzano dappertutto e sotto gli alberi scagliati in cielo dagli scoppi e delle esplosioni. Correre, correre sotto le onde di terra alte 3 metri che ti ricoprono l'istante. Correre, evitando pezzi di corpi squarciati e dilaniati che ti volano 1 centimetro dalla faccia, teste di cavallo, braccia di soldate, schegge, pietre, bombe, buche, quell'inferno scoppia in un istante. E per salvarti da quello puoi solamente correre, correre e sperare, correre per ci fa sentire finalmente europei! E di chi è il merito di tutto questo? Di chi è? Non è certo il tuo, non è certo. Vabbè, ma neanche il tuo. Non è neanche il mio. Voi lo sapete di chi è, signori? Ditelo, forza! Il merito è della nostra nuova classe dirigente, esatto. Fratelli, dei nostri giovani governanti che hanno rottamato i vecchi generali evasori e corrotti e hanno incentivato i nostri figli a entrare nel fuoco vivo del conflitto. Oh, qua si parla di 80 sigari al mese e 2 litri di grappa in più cada uno! E dovreste vedere i nostri giovani come saltano fuori dalle trincee e corrono con una braccia spalancata incontro a questi stranieri. Sì, con che passione, con che ardore. Certo, non mancano neanche fra i nostri eroi gli imboscati, i disertori. Abbiamo addirittura sentito di ragazzi italiani che fuggiti all'estero. Vabbè, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Che stiano là! Noi non abbiamo bisogno di loro. Fannulloni! Anzi, se qualcuno di voi si trova ad andare a Londra, a Berlino, ditelo da parte mia. Ha detto il vostro ministro, statevene là! Noi non sappiamo che farcene di voi! Improduttivi! Perché è importante, amici, è importantissimo che noi non perdiamo la pazienza e non perdiamo la speranza di credere che questo progetto è fondamentale per noi. Porterà l'Italia fra i protagonisti d'Europa e del mondo intero! E allora dimentichiamoci di essere madri! Dimentichiamoci di essere padri! Dimentichiamoci di essere umani! Dimentichiamoci di essere cittadini, perché ce lo chiede il mercato! Ce lo chiede la storia! Ce lo chiede l'Europa! Ce lo chiede la finanza! Ce lo chiede Dio! Basta. Io non ne posso più di tutta questa sofferenza. Non ne posso più di tutte queste menzogne. Non ne posso più di tutta questa confusione. Non ne posso più di me e di continuare a vivere così, in questa condizione, sempre avvolto dalle tenebre, in questa notte atroce ed infinita, spaccata solamente da qualche razzo, lampo abbagliante che mi acceca, ma non riesce a farmi capire esattamente dove sono. Io vivo così, come un topo, sempre curvo, con il cuore nascosto, in questi camminamenti oscuri ed infiniti, nei quali mi trascino rasentando le pareti con le mani. Le mie dita sembrano baffi, che vibrano nell'aria alla ricerca di qualcosa che non trovano mai. Un animale, una bestia, una talpa mi sento, costretta a tirare fuori la testa da rifugio in cui è nascosta e a annusare l'aria che è intorno per capire dove sono, se ho qualcuno intorno a me. Ombre, grigie ed uniformi, tutte uguali, che io non riconosco più. Nemiche, forse amiche, anche loro sempre e comunque pronte a farmi fuori con le proprie lingue di fuoco assiepate come stanno dietro quelle feritoie. Io non ne posso più di vivere così. Io voglio ritornare a casa mia, alla mia vita normale, per rivedere gli occhi azzurri di mio padre, l'espressione di mia madre, il sole alto in cielo ed i miei occhi ormai cambiati, i miei occhi sfigurati dal dolore. Sogna, fiore mio, sogna e riposa. Chiura sta bocca che pare una rosa, sogna e chiude l'occhio, tun tun, che quando sogni tu, sogna l'umuna. E chiura l'occhio e non parlare, sogna lo fondo dell'umare, e chiura l'occhio e non ave paura, sognano mondo fatte su natura. Sogna lo vento, sogna la tempesta, sogna lo mare, sogna la foresta, ca la musica de sta organetta te scende ancora e te scavampietta, e raziulella mia, non parlare, non è più tempo di sciatare, oggi hai finito de disperare, ca doppa di mare ia m'affaticare. Na na na na na. Per i nostri giovani eroi che hanno combattuto con noi, hanno combattuto per noi con tanto coraggio, con tanto onore, i nostri giovani eroi. Facciamo piano, facciamo un minuto di silenzio per loro. Bitten, Heineken Denkminuten, danke. Heineken Denkminuten, für unsere jungen Helden, die hier leben, für uns listen, danke, danke. S'il vous plaît, un moment de silence per nos généraux qui ont donné leur vie pour la patrie. Merci, merci. Silence, please, for our young patriot. Thank you, thank you. Merci, gracias, danke. Merci, grazie, grazie. Facciamo piano, danke, danke. Eravamo noi, io e i miei compagni di classe, gioventù di ferro, che cadevamo come soldatini di piombo, Alberto, Francesco, Cameric, morto in ospedale per l'amputazione del femore, Ben, Giuseppe, il secchione della classe, fu il primo a cadere, accecato da uno scoppio fu abbattuto a fucilate, Federico, che rientrava fra le linee trattenendosi le viscere con le mani, Umberto, che correva senza gambe, cercava di tenere l'equilibrio saltellando sulle mani, e Carlo, il mio compagno di banco, Carlo, dissanguato da una scheggia. Lo vedemmo svuotarsi in un istante come un odre. Vedemmo il corpo del capitano Luigi girare ancora senza testa, decapitato come un pollo da un colpo di vanghetta. Con la pancia gonfia e la faccia blu per il gas trovammo Michele e qualche giorno dopo suo fratello Giorgio, morto di paura sul posto di vedetta. Aveva ancora la sigaretta accesa fra le labbra. I miei compagni, la mia classe, che insieme ad operai, contadini e richiamati di ogni sorta, eravamo la gioventù di ferro, la classe eroica. Grazie, grazie a tutti quanti. Siete stati bravissimi, ma continuiamo a fare piano. Continuiamo a fare un minuto di silenzio per questi giovani eroi, così belli, così coraggiosi, che hanno combattuto sui monti, in mezzo alla neve, con tanto onore e con tanto coraggio. Continuiamo a fare un minuto di silenzio per questi giovani eroi. Un giorno, mentre rientravamo da un ennesimo assalto, passammo davanti ad un ciliegio in fiore. Notai Dietering, un contadino del nostro gruppo, bloccarsi di colpo. Cos'hai? Gli chiesi. Guarda, mi rispose, i ciliegi sono in fiore. Io non capii, ma vidi che il suo sguardo era cambiato, la sua testa era altrove. La sera, quando rientrammo ai baraccamenti, vidi che stringeva in pugno un ramoscello di ciliegio. Lo tenni controllato allora e notai che infagottava lentamente le sue cose nello zaino. Dietering, ma cosa fai? Non starai mica pensando di scappare, gli chiesi. Ma cosa vuoi? Mi rispose bruscamente. Non si può neanche raccogliere un ramoscello di ciliegio adesso? La mattina seguente l'appello non c'era. Io non dissi niente, sperando che la sua assenza non fosse notata. A qualcuno la fuga era già riuscita. Ma lui dopo due giorni lo riportarono in linea. Era andato dritto a sud, verso casa. Lo aveva fatto nella maniera più stupida e adesso doveva essere punito. Era un disertore. Questo diceva la corte marziale. Vagli a spiegare che era solamente nostalgia di casa. I miei campi sono pieni di ciliegi in fiore, sai? E dal fienile puoi vederli. Sembrano enormi distese di lenzuola bianche quando sono in fiore. E questa è l'epoca, sai? Adesso mi toccava anche spiegarlo a sua madre. Avrei dovuto scriverle o andarla a trovare di persona la prima licenza utile. Ma come avrei potuto fare a raccontarlo a quella contadina che non faceva altro che frignare quel giorno mentre ci accompagnava a prendere il treno? Mi tirava forte per un braccio e mi pregava: Paolo, per favore, stai attento tu a mio figlio. Ti prego, Paolo, bada tu al mio bambino. Com'è morto? Lo so che sei venuto per questo. Ha sofferto? No. No, signore, è morto subito. Lo hanno colpito al cuore. Stai mentendo. Ho sentito la sua angoscia. Dimmi com'è morto. In combattimento, signora, ma senza soffrire. Lo hanno centrato al primo colpo. Lo so che vuoi consolarmi, ma non lo vedi che mi fai soffrire di più che se mi dicessi la verità? Dimmi com'è morto. Anche se è stato atroce, sarà sempre meglio che quello che vado ferneticando nella mia mente. Non se ne è neppure accorto. Giuralo. Giuralo su quanto hai di più sacro. E cosa mi restava di più sacro? Avrei voluto dirle la verità, ma che cambiava? Tanto era morto. Tanti erano morti. Tutti saremmo morti, forse. Glielo giuro. Quando è morto? Dove l'hanno sepolto? Ma perché tu sei vivo se lui è morto? Ma perché siete nati? Perché siete nati? Perché siete nati, ragazzi miei? Cucchia! È dimagrito ma è sempre bello l'alpino al fronte, beh, e l'addominale, addrizzi le spalle alpini. Tuo padre tanta da palla mi ha fatta, mio figlio di qua, mio figlio di là, mo l'hanno a fa capitano. Ho capito uno come stai, annaggia te, annaggia, beh, ci stai con bene te, stai rasc, stai rasc. Ah, oh, l'italiano giocava in cicchiosa, oh. Questo qua era contro l'Europa, ma mo, la cavalcata delle valchirie, mannaggia a te, mannaggia. Mi dispiace che a me mi hanno riformato, c'era un casino che mi ha fatto, ma hanno trovato un problema. Alla testa? Oh, c'è alla testa, alla vista, non c'è vero pure, al pi. Comunque, c'è devo li mi da su se da sci. Ma sopra stanno i monti. E allora mi asci da sotto, che più fa? E sotto c'è il mare. Appunto, così mentre quelli stanno sul cesso, pa, giù piazzamo ancora, al pi. Ehi, alla prossima volta, una bella medaglia, due medaglie, tre medaglie, puttana, la domanda da scuola, non capisci un cazzo. Paolo, beh, ben proprio a te, madonna come ti inventi bene, e tu vuoi se ti fai proprio un uomo, e sai che la guerra la tua bene, pensa febbla, divertirsi, a valere, a cantare, tutti in santo, in giovane, in tutte le forme, guarda, e mi sarei piaciuto tanto anche a me dire la guerra, ma a me è un po' sbrisa, perché sono una donna, ma secondo te è una cosa giusta, secondo me neanche un po' è sempre, perché va sempre. Ma mia per combattere, no, per la strategia, ma sono una stratega. E a proposito, io vengo a sbagliare in cosa, e sai perché? Perché io vengo andare frontale, frontale, frontale, all'attacco. E invece no, io vengo mica a fare un bel cerchio, posti che, sti che, sti che, trape, testi, tre come dal fulmighi. E più essere l'idea che, lei bella, senti che se tu hai detto capitano, ti dico un'idea tua. E secondo me stavolta una bella medaglia di tlachevano in sol. Dio come te, bel Pavlen, e mi ha fatto tanto piacere, guardità. Fai breve, ma quando fai breve, c'è un problema, fai breve. Tutti parlano, ma proprio tutti. Tutti dicono e chiedono continuamente come va là, che si fa là, si sta bene là. Ma tanto poi alla fine di là non interessa veramente niente a nessuno. Ognuno è chiuso nel proprio piccolo mondo interiore e anche quelli che sembrano più interessati lo fanno solo per esporti la propria versione dei fatti. È un mondo alla rovescia. Io questa gente, che è poi la mia gente, non la capisco. Non ci riesco proprio. Quando li vedo nei loro uffici, nelle loro case, presi dalle proprie abitudini, li invidio e li disprezzo. Ma poi mi chiedo, come si può sprecare un'esistenza così? Abortendo sogni, scopi, desideri per seguire la noia e la certezza della quotidianità. I momenti migliori che trascorro sono nella mia cameretta, da solo. Perché è lì, quando sono immerso nelle mie letture, che riaffiorano i miei ricordi. E adesso che so già che dovrò ripartire, non vorrei più separarmi da loro. Prendetemi con voi, allora gli urlo stringendoli forte al petto, vi prego, trattenetemi, fate sì che io non parta, riportatemi a quella vita spensierata di un tempo quando per me scrivere o leggere erano tutta la vita, ma loro niente, non mi dicono più niente, e anche quando li sfoglio, li scuoto e li tiro giù dalla mia libreria, loro sono muti, sono vuoti, sono completamente privi di vita. Appena rientrato in linea, mi hanno messo di guardia ai prigionieri. Che pena. Li vedo tutto il giorno girare in quelle gabbie come animali catturati e tenuti lì a marcire. con le loro barbe d'apostoli ed i loro visi da fanciulli se ne stanno immobili, aggrappati a quelle sbarre di filo spinato per ore, cercando di intercettare la brezza che viene dai boschi del nord. Qualcuno di loro ogni tanto si avvicina ai nostri accampamenti per rovistare nel secchio della spazzatura. Però già il nostro vitto è scarso e cattivo. Immaginarsi loro che cosa ci trovano. Una brodaglia liquida e torbida fatta di bucce di patate e qualche torsolo di rame. Fra di noi c'è chi li prende a calci per mandarli via. Ma per fortuna non sono tanti. È anche vero che questi ti fanno innervosire quando ti fissano con quelle facce spaurite. È incredibile quanta miseria possano contenere due occhi. Ti viene voglia di accecarli perché la smettano di fissarti così. Ogni tanto ci mostrano un lembo della camicia sporco di sangue. È vero, per questi la guerra è finita. Ma anche starsene lì così, a morire di diarrea, buttati in una gabbia con le viscere che ti vomitano sangue, non deve essere una bella vita. Sono disposti a vendersi tutto quello che gli è rimasto per un pezzo di pane duro. I loro stivali sono ottime calzature di cuoio resistente ed i nostri zotticoni sono così irritanti quando si avvicinano con le sbarre e lentissimamente affettano un po' di pane. Poi strappano un morso di salsiccia e adagio se lo infilano in bocca mentre quelli sbavano e strepitano i loro piedi per la fame. Di notte poi si vedono i loro volti illuminati dalle braccia delle sigarette. Con le loro gambe magre e le loro ginocchia gonfie sembrano cicogne malate, buttate lì ad aspettare che arrivi la morte, o forse la pace. E non appena uno di loro muore, ce n'è subito un altro che va lì a prendere il suo posto e va ad artigliarsi con le sbarre di filo spinato. Che assurdità la guerra. Un ordine scritto in una stanza lontana migliaia di chilometri ce li ha resi nemici. E ci impone di tenerli prigionieri. Loro farebbero lo stesso a parti inverse. Poi però magari un altro ordine scritto nella stessa stanza potrebbe trasformarli in amici, così. Allora li chiameremmo alleati e combatteremmo fianco a fianco contro qualcun altro. Una sera bisognava uscire per una ricognizione. Io mi offrii volontario perché ero appena rientrato dalla licenza, ma non conoscevo quel posto ed una volta fuori mi persi subito. Quel buio scuro così opprimente mi stava angosciando. Alla luce di un razzo allora riconobbi una buca e mi tuffai dentro. Lì avrei potuto ripararmi e studiare con calma la situazione. Ma ormai ero sotto le linee nemiche. Il fuoco era basso, raso terra, non potevo più neanche alzare la testa. Mi stava salendo l'ansia. Sentivo come due occhi nel buio che mi spiavano e il rumore di passi crescenti che calpestavano la terra sopra di me. Mi prese il panico. E se qualcuno per errore fosse caduto nella buca... Prese allora il mio coltello e mi preparai a colpire. Non avrei avuto alternative, dovevo colpire per primo, ammazzare prima che quello uccidesse me. Neanche il tempo di finire il pensiero che un urlo, un tonfo, un peso enorme mi schiacciò nella buca. Colpì allora, colpì con tutta forza dell'incorpo, fino a quando non mi manco respiro, fino a quando il braccio non mi fece male per lo sforzo, lo colpì. Poi mi allontanai, avvicinai le mani alla bocca, perché la sentivo bagnata, sapeva di sangue, di ferro. Quell'uomo intanto voltato su di un fianco stava rantolando. Stai zitto, ti prego, non sono qua per ammazzarti. Stai zitto, non costringermi a colpirti di nuovo, ti prego, stai zitto. Io sono qui e posso aiutarti. Si calmò. Io presi le mie garze di medicazione e le bagnai in una pozzanghera. Poi ne posai una sulla fronte, una sulla bocca perché si dissetasse un po' e una sul petto. Avevo una macchia nerastra che si stava allargando dal centro della ferita. Scusami, fratello, ma io non l'ho fatto apposta. Io ti ho colpito solamente per paura, paura che tu lo facessi per primo, ma se tornassimo indietro io non ti colpirei di nuovo. A patto che tu fossi ragionevole, però. Mi guardò, aveva gli occhi sbarrati, fissi nel vuoto. Poi reclinò il capo. Era morto. Ma che fai, fratello? Ma che fai, fratello? Resisti, ti prego, non puoi morire così. Oh, amico, sto parlando con te, rispondimi. Non mi puoi abbandonare qua da solo. Non appena il fuoco si calma, io ti porto fuori, al primo posto di medicazione, forse anche uno dei vostri, ma ti prego, non puoi morire così. Non mi puoi lasciare qui così, da solo. Non è te che io volevo uccidere, ma la tua divisa, l'idea che avevo di te, la mia paura di morire. Ti prego, fratello, non mi puoi abbandonare da solo. Prenditi 20 anni della mia vita, prendi tutto quello che ti vuoi, ma resisti se puoi. Niente. Niente. Quell'uomo non parlava più. I suoi occhi erano vuoti, lontani, rapiti dalla morte. Cercai allora i suoi documenti. Doveva avere una donna a cui scrivere. Trovai due foto. Avevo una moglie e una bambina. Si chiamava Peter e faceva il tipografo. Non ti preoccupare, fratello. Mi prenderò cura io delle tue donne. Scriverò io loro tutti i giorni. Ma tu perdonami se puoi. Io non l'ho fatto apposta, fratello. Perdonami. Come si manifesta in forma nel nostro secolo l'odio. Lui non è come gli altri sentimenti. È insieme più giovane e più vecchio di loro. Da solo lui genera le cause che lo fanno nascere. Se si addormenta poi, il suo non è mai un sonno eterno. Religione o non religione, purché ci si inginocchi per il via. Patria o non patria, purché si scatti alla partenza. All'inizio anche la giustizia va bene, ma poi corre tutto solo. L'odio, l'odio. Oh, quegli altri sentimenti, malaticci e fiacchi. Da quando la fratellanza può contare sulle folle? La compassione è mai arrivata per prima al traguardo? E il dubbio, quanti volenterosi trascina? No, lui solo trascina, forte, coraggioso, molto laborioso. Occorre dire quante canzoni ha composto, quante pagine ha scritto nei libri di storia, quanti tappeti umani ha disteso su quante piazze, stadi. Diciamoci la verità, sa creare bellezza, splendidi i suoi bagliori nella notte buia. Lo dicono cieco, cieco? Ha la vista più acuta del cecchino e guarda risoluto al futuro, lui solo, l'odio. Sentì la voce di Kat che mi chiamava. Era venuto a cercarmi con un telone per la pioggia sulla testa. Mi chiamava piano, sottovoce, per non farsi riconoscere. Io uscii di scatto dalla buca e corsi forte di lui, ma un'esplosione alle nostre spalle ci gettò per terra. Ci rialziamo e iniziamo a correre, ma Kat era stato ferito, colpito da un polpaccio. Dai, corri, Kat, prima che aprano il fuoco. Vieni, fratello, appoggiti. Non possiamo fermarci qua, siamo sul terreno scoperto. Non ti preoccupare, non siamo lontani dalle nostre linee. Vedrai che lì ce la facciamo ad arrivare, resisti. Lì ti porterò in medicheria, ti salveranno la gamba. Ma Kat piangeva come un bambino disperato. No, proprio adesso no. Adesso che la guerra finiva non ci voleva. Gli avrebbero tagliato la gamba e sarebbe rimasto invalido per sempre. Non vedevo più niente per la fatica. Gli occhi mi bruciavano, la milza mi stava scoppiando. Sentivo le gambe tremare per lo sforzo e le ginocchia battere una contro l'altra. Kat, ci siamo, vedo già le nostre linee. Resisti, fratello, ancora un passo, fratello, ancora un passo. Salta, salta dentro, Kat, salta, ci siamo, Kat. Salta. Salta, sistema, ti vedrai. Siamo arrivati, fratello. Vedrai che adesso viene fuori qualcuno e ti medicano la gamba. Ti medicano la gamba e ti salvano. Ti salvano, Kat. Ti mandano a casa. Per te la guerra è finita, fratello. È finita, fratello. Potevi anche risparmiarti questa fatica, ma non lo vedi che è morto? Ma cosa dici? Guardi che è soltanto ferito, ci ho parlato fino adesso. Ci scommetto quello che vuoi che è morto. Ho più esperienza di te, mi pare. Ma forse è solo svenuto per il dolore. Le dico che è ferito ad un polpaccio. Sì, anche al polpaccio, ma è morto, ti dico. Guardalo negli occhi. Kat! Dai, svegliati, Kat, falle vedere che sei solo svenuto. Kat! Apri gli occhi, riprenditi, mostrale la ferita, Kat! Ma quando sfilai la mano da dietro la sua nuca, era sporca di sangue. Una scheggia lo aveva colpito lì durante la corsa. Kat, mio fratello, era morto. Vuoi prendere il suo libretto, le sue cose? Eravate parenti, vero? No, non eravamo parenti, ma Kat era mio fratello, l'uomo che più di tutti avevo amato, lui che tante volte mi aveva protetto, salvato la vita. Mi girava la testa, mi venne la nausea e un'incredibile voglia di uscire da quella stanza per cominciare a vomitare. Fuori era tutto uguale, gli alberi, il cielo, le strade e i camion che rombavano avanti e dietro trasportando soldati e munizioni, tutto maledettamente uguale. Tranne che per una cosa. Kat, mio fratello, il richiamato Stanislao Kaczynski, era morto. E a pochi giorni dalla fine della guerra. È autunno. Dei vecchi compagni io sono l'ultimo rimasto. Tutti parlano di pace, di armistizio. Tutti aspettano. Se anche questa volta fosse una delusione, sarebbero guai. Le speranze adesso sono troppo forti, non si possono più trattenere. Se non sarà la pace, sarà la rivoluzione. Presto verrà l'armistizio, quindi, e ce ne andremo tutti a casa. Ora ci credo anch'io. Qui i miei pensieri si fermano e non fanno più un passo avanti. Ciò che mi attira e mi trascina sono soltanto dei sentimenti. È nostalgia di casa, è bramosia di vita, è il sangue che pulsa nelle vene e l'ebbrezza di essere vivo. Ma non sono dei pensieri definiti. Se fossimo tornati a casa nel 1916, dalla forza e dal dolore della nostra esperienza si sarebbe scatenata una tempesta. Ritornando adesso siamo stanchi, depressi, consumati, privi di radici e di speranza. Non potremo più trovare il nostro equilibrio, ma neppure ci potranno capire. Siamo inutili a noi stessi. Certo, andremo avanti. Qualcuno si adatterà, altri si rassegneranno, ma molti altri resteranno disorientati per sempre. Gli alberi sono colorati a variopinti, le strade adesso corrono bianche come il sale. Sono contento. Vengano i mesi e gli anni, non mi ruberanno più niente. Sono talmente solo e talmente privo di speranza che posso guardare dritto davanti a me senza timore. La vita che mi ha portato avanti per tutti questi anni è ancora nei miei occhi, nelle mie mani. E finché dura, si cercherà da sola la strada per andare avanti. Lo consenta o no, quell'essere disperato che dentro me grida ancora